Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. Oggi ci sarò io, domani torno e poi per tutta la settimana Sebastiano Barisoni. Quali saranno i temi di oggi? Necessariamente torneremo sul tema delle banche, che è il tema dominante economico e finanziario di queste ore. Su questi temi è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, ma ci sono anche delle notizie e un'attesa. Le notizie sono quelle che riguardano l'inchiesta sulla Banca Popolare dell'Etruria, una delle quattro banche salvate, lo ricorderete, in novembre dall'esecutivo, e riguardano delle perquisizioni che sono avvenute oggi nella sede della Banca Popolare dell'Etruria ad Arezzo, perquisizioni correlate al suicidio di un pensionato che aveva perso 100.000 euro, la vicenda la ricordate bene, ne abbiamo parlato tantissimo anche nei nostri giornali radio. Ma ci sono c'è anche un'altra questione che riguarda la Banca Popolare dell'Etruria, ossia il fatto che nel procedimento che riguarda l'ostacolo alla vigilanza, il GUP del Tribunale di Arezzo, Anna Maria Loprete, ha respinto le richieste di costituzione di parte civile dei risparmiatori, è stata ammessa invece la Banca d'Italia. E questo è un altro fronte interessante, soprattutto per quanto riguarda i risparmiatori, per così dire, traditi. Dall'altro lato ci sono ulteriori dettagli sul decreto che riguarda i cosiddetti ristori agli obbligazionisti che hanno perso tutto dopo che le quattro banche appunto sono state salvate dal governo con quel meccanismo che ha sostanzialmente anticipato il bail-in, che tante polemiche, tante discussioni ha suscitato. Avranno 4 mesi di tempo dal momento dell'approvazione definitiva del decreto per appunto chiedere l'eventuale ristoro. Ci sono ulteriori dettagli per quanto riguarda l'arbitrato. Altro tema che toccheremo è quello che soprattutto i cittadini milanesi stanno vivendo in queste ore, una città diciamo non proprio nel caos ma sicuramente che sta vivendo qualche problema a causa di una protesta spontanea, uno sciopero selvaggio per così dire dei tassisti che hanno deciso di protestare contro una circolare del Ministero dell'Interno. Il tema è sempre quello, riguarda Uber, ossia quell'applicazione che permette di sfruttare il servizio di noleggio con conducente sostanzialmente come se fosse un taxi, pagando poi con carta di credito. In particolare ci si riferisce a Uber Pop, che cos'è? È lo stesso concetto, cioè tramite l'app di Uber tu puoi chiedere di avere una macchina in un determinato punto della città, solamente che Uber Pop non lo fanno dei conducenti professionisti, ma la può fare chiunque nel momento nel quale si iscrive alla piattaforma. È arrivata una circolare ministeriale del Ministero dell'Interno che dice che gli utenti, gli autisti, chiamiamoli così, anche se tecnicamente non lo sono, di Uber Pop, non devono ricevere alcuna sanzione. È scattata una protesta da questo punto di vista dei tassisti che hanno bloccato la città. Vedremo che cosa succederà nelle altre città dopo questa circolare, posto che per esempio il Comune di Milano dice: guardate, sono sanzionati, sono sanzionabili, il Consiglio, noi abbiamo elevato una multa, il Consiglio di Stato su questo ci ha dato ragione, quindi non ci sono problemi. Parleremo con un rappresentante della categoria dei tassisti. Infine toccheremo il tema europeo, è l'altro tema non solo economico in questo caso che attraversa tutte le discussioni di queste ore, ed è il tema in particolare dei migranti. Oggi come già anche GR24 vi ha raccontato, è stato presentato un nuovo progetto, una revisione del cosiddetto Trattato di Dublino. Il Trattato di Dublino è quello che regola la richiesta d'asilo nei paesi europei, che deve essere fatta secondo l'attuale formulazione nel paese nel quale si arriva, e quindi il paese nel quale si arriva è di fatto quello che deve vagliare la richiesta d'asilo e il posto nel quale sostanzialmente si riceve asilo, con il risultato che i richiedenti asilo in sostanza si ammassano in un solo luogo, come per esempio la Grecia o come per esempio l'Italia. C'è una proposta di revisione di questo regolamento di Dublino, e questa proposta di revisione prevede che si parta con i ricollocamenti e che chi rifiuta di accettare i rifugiati all'interno dei paesi europei dovrà pagare 250.000 euro di sanzione per ogni rifugiato. Ovviamente la cosa sta già suscitando polemiche a livello europeo, tutto questo, quindi c'è una questione economica su questo fronte, e ovviamente il tutto ha un impatto anche su una situazione europea complessivamente difficile. Torneremo a parlarne, come spesso facciamo, con Adriana Cerretelli. I mercati oggi sono è positiva a Milano, che guadagna lo 0,16% sul FTSE MIB e lo 0,19% sul FTSE All Share. È arrivata a guadagnare circa mezzo punto percentuale nell'arco del pomeriggio, in un quadro complessivamente negativo per le borse europee. Francoforte cede lo 0,9%, Parigi un punto percentuale, Londra l'1,11%, l'America è negativa, meno 0,6% per lo Standard & Poor's 500 e meno 0,4% per il Dow Jones. Una situazione, se volete, speculare a quella di ieri, nella quale Milano ha fatto molto peggio di tutti gli altri indici europei. A confortare l'andamento di borsa oggi sono, così come erano stati i bancari ad affossare la borsa ieri, sono proprio i bancari: Banco Popolare che guadagna il 5%, Banca Mediolanum il 3,39%, c'è anche UBibanca che guadagna il 2,22%, positiva Poste Italiane che guadagna il 2,4%, ma ci sono anche Finmeccanica più 1,93%, Telecom Italia più 1,7%, Luxottica più 1,56%, in fondo al listino ST Microelectronics meno 3,48%, ma c'è anche qualche bancario in negativo. Quindi, come vedete, oggi il settore ha due facce: Intesa San Paolo meno 1,8%, Mediobanca meno 0,8%, Monte dei Paschi meno 0,73%, e sul listino principale anche Yux Net-a-Porter negativa, cede l'1,26%. 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp, le notizie in breve di oggi. Iniziamo dalle materie prime. Come sempre, oro in calo dello 0,2% a 1287 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, il Brent, quello quotato a Londra, quello del Mare del Nord, con consegna a luglio, sale dello 0,47% a 45,19 dollari al barile. Il WTI con consegna a giugno più 1,08% a 44,12 dollari al barile. Notizia che avete probabilmente sentito se eravate in ascolto anche in GR24 pochi istanti fa, una notizia dura, abbastanza pesante per Apple, che ha perso una battaglia legale in Cina sull'esclusiva della denominazione iPhone, che ora potrà essere utilizzata anche da una società che produce portafogli e borse, che a questo punto immaginiamo che incrementerà le sue vendite e la sua produzione notevolmente. Si tratta della Jintong Tiandi Technology, tra l'altro Technology si chiama, che commercializza pelletteria sostanzialmente. Notizia che arriva dalla Banca Centrale Europea, in realtà l'attendevamo per oggi, non è ancora arrivato nulla. Il Consiglio potrebbe discutere sulla banconota da 500 euro. Qual è il punto? Che la Banca Centrale Europea vorrebbe eliminarla, questa banconota da 500 euro. Perché? Perché serve all'economia criminale, serve al riciclaggio. Io non so se l'avete mai vista una banconota da 500 euro, io no. Tra l'altro le segnalazioni arrivarono inizialmente proprio dall'Italia e dalla stessa Banca d'Italia, che segnalò come non se ne vedevano in giro e che era presumibile che fossero utilizzate appunto dall'economia criminale. Vedremo se arriveranno decisioni dalla BCE su questo. Dell'ipotesi di revisione dei regolamenti di Dublino vi abbiamo già detto, si prevedono appunto 250.000 euro per ogni rifugiato rifiutato da un paese, 250.000 euro di multa. Ci torneremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. Venendo all'Italia, in queste settimane molto si è discusso del tema dei voucher, il rafforzamento dei voucher sul lavoro, che fanno parte del pacchetto sul lavoro del governo, e di quanto si fossero prestati a delle deviazioni, a forme di sfruttamento. Ne ha parlato lo stesso Renzi oggi, dice siamo contrari all'abolizione dei voucher e disponibili a discutere di eventuali forme migliorative ove vi fosse la possibilità. Se ci sono eccessi siamo pronti a discuterne, sentiamolo. Noi siamo contrari all'abolizione dei voucher e siamo contestualmente disponibili a discutere insieme al Parlamento, a tutti voi, di eventuali forme migliorative ove vi fosse la possibilità e la necessità di farlo. Onestà intellettuale dunque vuole che la nostra non è una posizione di chiusura ideologica, è pronta alla discussione, è pronta al dialogo. Non c'è governo negli ultimi anni che abbia combattuto il precariato più del nostro. Lo dimostrano alcuni dati. L'assunzione nella scuola, contestata nel merito della legge sulla buona scuola da parte vostra, ma che ha portato a un oggettivo cambio di passo nella situazione del precariato. Il Jobs Act, come noi offriamo onestà intellettuale, la vorremmo da parte vostra. Il Jobs Act ha prodotto, dal primo giorno in cui noi siamo qua ad oggi, 398.000 posti di lavoro in più, di cui 354.000 a tempo indeterminato. E se ci sono oggi 373.000 disoccupati in meno che hanno potuto festeggiare la festa del lavoro, che prima non potevano festeggiare, questo si deve anche alle riforme del governo. Così Renzi sui voucher, e no, caro Roberto che scrivi su WhatsApp, caro ascoltatore, no, non l'ho mai vista la banconota da 500 euro, lo posso assicurare, vi dovete fidare la mia parola evidentemente. Aggiunge Renzi che l'aumento medio degli incidenti sul lavoro tra chi è pagato con voucher non è differente dal dato generale, ma c'è stato un aumento generalizzato inaccettabile nel 2015. Il dato ha iniziato una discesa nel 2016. Le tasse. L'osservatore della CNA ci racconta che le imprese hanno strappato 11 giorni al fisco. Il cosiddetto tax free day, vale a dire il giorno nel quale l'imprenditore può finalmente cominciare a destinare i guadagni aziendali all'impresa e alla famiglia, è passato dal 20 agosto del 2014 al 9 agosto nel 2015. Ma ci sono comunque livelli di tassazione impressionanti, insomma, lo racconta il rapporto CNA, c'è Reggio Calabria con una pressione fiscale complessiva sulle imprese che è del 72%+. Claudio Carpentieri, responsabile fiscale CNA, intervistato da Valeria De Rosa. Il rapporto, come ogni anno, valuta l'effettivo peso della pressione di tutti i tributi sul reddito delle piccole imprese, e cioè quanto reddito va via in tasse che si pagano in ragione dello svolgimento dell'attività aziendale, ovviamente, no? E questo calcolo è fatto non solo a livello nazionale, ma il livello nazionale è frutto di una media dei calcoli fatti su 124 comuni d'Italia. Abbiamo stilato anche una classifica. Al primo posto c'è Reggio Calabria con una tassazione molto elevata, che è pari al 73,2% del reddito che se ne va in tasse. All'ultimo posto c'è Gorizia con un 54,4% di tasse da pagare sul reddito, e la media nazionale sul 2016 risulta essere il 61%. Dal 2015 al 2016 che cosa è cambiato e perché? Ci sono due cose che abbiamo analizzato in particolare: le variazioni tra il 2014 e il 2015, che sono state importanti, perché dal 2014 al 2015 sui dati consuntivi abbiamo apprezzato una riduzione del total tax rate di 3 punti percentuali. Sul 2016 c'è stata una piccola variazione in aumento, dello 0,1% in più rispetto al 2015, perché l'aumento della franchigia IRAP, che è passata dai 10.500 euro a 13.000, è stata mangiata, quel beneficio IRAP, dall'aumento della contribuzione dell'artigiano. C'è un aumento dell'aliquota di contribuzione dell'artigiano che determina un aumento della tassazione erariale. Marco da Como, vedo che questa cosa della bancarotta da 500 euro sta scatenando la fantasia. Marco da Como ci dice: io l'ho vista perché abito vicino alla Svizzera. Non male. I dati di Confcooperative: 48.000 nuovi posti di lavoro creati dalle cooperative tra il 2007 e il 2015, pari a un più 10,1% rispetto al periodo precedente. Questi dati che hanno diffuso oggi il presidente di Confcooperative Gardini dice: il governo è sulla strada giusta, bisogna proseguire con la riduzione del cuneo fiscale. A proposito di tasse, e prima di affrontare il primo tema di giornata, le banche, oggi in effetto giorno ci siamo concessi una cosa che starebbe bene nella classifica che fa Sebastiano Barisoni il venerdì: il pubblico impiego, ma in particolare il pubblico impiego e gli impiegati di Roma Capitale. Che cosa succede? Succede che, secondo quanto pubblica il Messaggero, ci fa una paginata oggi, c'è un livello di stress alto tra chi lavora al Comune di Roma. Per questo l'amministrazione comunale ha pensato di allestire un corso per l'esatta postura durante l'orario di lavoro, corsi di relax. E a Ostia, dove c'è, che o se lo ricordiamo è un municipio di Roma, non è un comune a parte per quanto lontana sia, dove c'è il record di persone con livelli di stress elevati, vengono fatti corsi di bioenergia. Abbiamo sentito Giancarlo Cosentino, segretario Funzione Pubblica CISL di Roma e del Lazio Enti Locali, appunto, durante effetto giorno. Parliamo di una cosa che intanto è normata la legge, il DL 81, la legge 81 prevede, anzi da obbligo ai datori di lavoro, in questo caso anche alle pubbliche amministrazioni, di effettuare continui controlli sul cosiddetto stress da lavoro correlato. E la correlazione col tipo di attività che il datore di lavoro ti chiede, il tipo di prestazione, la modalità con cui l'ente ti mette in servizio sostanzialmente, tant'è che al luogo l'INAIL stesso prevede di fare delle schede obbligatorie per ogni dipendente, sì, affinché venga accertato e verificato questo fenomeno. Scheda che è un'autocompilazione sostanzialmente. Certamente che sì. Sì. Arriva una scheda, ti chiede: sei stressato? Se il dipendente dice sì, no, in una scala da 1 a 10, più o meno una cosa di questo genere, no? Ma non è così, perché ti dice: sei stressato perché? Qual è la correlazione che tu dai rispetto al tuo aspetto psicofisico e a che cosa presti? Tant'è che una delle condizioni che emergono da questa indagine è quella che ovviamente il personale che maggiormente rappresenta le difficoltà a livello lavorativo è quello così chiamato in front office. Diamo per buono il livello di stress, ma è normale che i corsi per recuperare questo stress avvengano in orario di ufficio, sguarnendo magari gli sportelli? Non vengono sguarniti gli sportelli, perché quello che è stato adottato in quel municipio, che vorrei ricordare, è quello che ancora oggi è commissariato per mafia. C'è un prefetto ed è l'unico municipio a Roma dove non si fanno le elezioni tra le varie cose, è ovviamente un'attività che ha dei problemi reali, perché lì ogni volta che si alza la penna o c'è una richiesta da fare c'è sempre il problema per quel dipendente ormai lasciato da solo con l'unico dirigente. Ma cos'è questa roba della bioenergia? Ce lo chiedono anche gli ascoltatori via WhatsApp. È una roba che riguarda la respirazione? Sono delle misure adottate di concerto con il medico competente, che ha l'obbligo oltretutto di vigilare sulla salute. Ora, se lei mi dice nell'esattezza quale tipo di esercizio questi fanno, posso essere con lei e non capirne effettivamente l'aspetto di medicina. Vengono invitati a fare degli esercizi, ma non nei momenti in cui si ha il contatto con gli utenti. Ci siamo, respirate profondamente. Insieme ai dipendenti del municipio 10 di Ostia. Bene, veniamo a temi più seri, anche se, insomma, anche questo è abbastanza serio, però parliamo di banche, va. La giornata, come si diceva, ci consegna un po' di cronaca e una vigilia. La cronaca essenzialmente giudiziaria riguarda la Banca Popolare dell'Etruria e la vigilia è quella dell'Assemblea di Veneto Banca. Saluto i due colleghi del Sole 24 Ore che mi hanno raggiunto. Sara Monaci, buonasera. Buonasera. E Marco Ferrando, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Marco, ci sta accompagnando tantissimo su queste vicende, così come Sara lo sta facendo per quanto riguarda appunto la parte più strettamente giudiziaria e più correlata ad Etruria. Allora, oggi Sara, la finanza è andata nella sede di Banca Etruria. La cosa, mi sembra di aver capito, è in relazione all'inchiesta sul pensionato che si è tolto la vita, no? Sì, sì, in particolare è il nucleo valutario della Guardia di Finanza, perché la Guardia di Finanza come comando provinciale segue tutto il resto, cioè la parte strettamente finanziaria. Qui stiamo parlando proprio del suicidio del pensionato, lo ricorderete, Luigino D'Angelo di qualche mese fa, che è stato il primo caso che poi ha messo in evidenza il problema delle obbligazioni subordinate. L'uomo avrebbe perso tutto, per questo si sarebbe suicidato, aveva anche lasciato una lettera dicendo appunto alla moglie che dalla banca, anche dai funzionari che conosceva personalmente, non se lo sarebbe aspettato, e questo gesto è stato proprio un gesto estremo di disperazione e quasi di vendetta, insomma, nei confronti dei funzionari che gli avevano venduti questi prodotti. Da quel momento si è cominciato a parlare appunto di obbligazioni subordinate e questo caso, questo singolo caso, è stato trattato dalla procura di Civitavecchia, dove l'uomo era residente, e da quel momento è stata avviata un'indagine sulla motivazione del suicidio, quindi induzione al suicidio. È chiaro però che per quanto si tratti di due cose differenti, poi a un certo punto queste due inchieste a un certo punto si toccano, quella di Arezzo e quella di Civitavecchia, perché sebbene Arezzo si guardi la questione finanziaria, l'ostacolo alla vigilanza, siamo poi arrivati alla bancarotta fraudolenta, ma esiste il filone sulla truffa, il perché siano state vendute queste obbligazioni subordinate a persone che non avevano probabilmente competenza. Allora, e questo è un punto, Sara. C'è un'altra questione che riguarda la cronaca giudiziaria, sì, però in questo caso che arriva da Arezzo, sì, che forse in questo momento è più importante, se vogliamo, sì, da un punto di vista proprio per i risparmiatori, no? Sì, diciamo, sono in realtà appunto la questione di Civitavecchia è importante dal punto di vista del risparmio per quello che potrebbe essere un domani, cioè capire se poi queste truffe, queste operazioni di vendita di subordinate, di obbligazioni subordinate, siano state un fenomeno voluto dall'alto, quindi imposto e quindi con responsabilità più ampie, e questo potrebbe anche essere una cosa interessante per i risparmiatori, perché evidentemente a quel punto anche la questione della responsabilità individuale dei singoli risparmiatori verrebbe meno e si ipotizzerebbe quindi un reato di truffa, il che farebbe anche prevedere a più facili risarcimenti. Oggi cosa è successo? L'udienza del filone di ostacolo alla vigilanza che vede indagato l'ex presidente Fornasare e l'ex direttore generale Luca Bronchi ha avuto un aspetto inatteso. Tutte le parti civili sono state estromesse ed escluse dal processo, tranne ovviamente Banca Italia, perché Banca Italia è il nodo centrale dell'inchiesta. questa, l'ostacolo alla vigilanza si basa proprio sul presupposto, sull'ipotesi che siano stati omessi alcuni documenti importanti per Banca Italia per poter avere contezza dello stato del bilancio di Banca Etruria. Tutto il resto, risparmiatori, parliamo di Federconsumatori, ma anche degli azionisti, sono stati esclusi, cioè i giudici non hanno ritenuto che possano chiedere in futuro qualche cosa all'interno di questo processo. Allora, questo è il punto dal punto di vista strettamente giudiziario. Già qualcuno ci scrive, qualche ascoltatore, se degli azionisti di Etruria non parla nessuno. Ne parliamo, ne voglio parlare con... Sì, gli azionisti, precisiamolo, sono stati esclusi. Sono stati esclusi, sì, da tutto questo. Salvo una possibilità eventuale, Sara, di rivalersi in sede giudiziaria, suppongo, per esempio nei casi nei quali sono stati costretti a comprare azioni... Beh, ognuno poi potrà a quel punto fare un esposto personale in procura e il caso diventa individuale, però diciamo anche una cosa, che tra azionisti e obbligazionisti c'è una netta differenza, certo, perché mentre gli obbligazionisti vengono comunque conteggiati come possibili soggetti da risarcire, salvo casi in cui si supera il famoso reddito di 100.000 euro. Perché spieghiamolo, tecnicamente sono dei creditori della banca gli obbligazionisti. Sì, gli obbligazionisti sono coloro che hanno fatto un prestito e che potrebbero avere, dovevano avere qualcosa che poi non hanno ottenuto. Gli azionisti sono dei veri e propri soci, quindi il capitale di rischio di un azionista è un capitale sicuramente più importante proprio per il conteggio dello stato patrimoniale, ma il socio viene ritenuto come un soggetto più consapevole proprio per definizione, non è un cliente, è un proprietario della banca, tradotto in termini semplici. Sì, molto, molto semplicemente. Allora, Sara, nel ringraziarti e nel salutarti, dico agli ascoltatori che noi adesso torneremo su tutto questo, abbiamo una pausa e siamo già un po' in ritardo, su questa pausa lo spazio per il meteo e la pubblicità, e poi dopo torneremo con Marco Ferrando per parlare sì di Veneto Banca, ma anche di qualche dettaglio in più che è arrivato oggi, perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul decreto che riguarda i rimborsi agli obbligazionisti di queste famose quattro banche. Magari daremo qualche dettaglio rapido, a volo d'uccello, su questo, e poi verremo a Veneto Banca, perché dal punto di vista sistemico, per così dire, quello che riguarda Veneto Banca è più importante. Lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Fondo Atlante è dovuto di fatto diventare il quasi azionista unico della Banca Popolare di Vicenza a fronte di un aumento di capitale. Il prossimo aumento di capitale è proprio quello di Veneto Banca, quindi questo ha un impatto sulle risorse che poi avrà il Fondo Atlante. Pausa, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Ci scrive un ascoltatore dove è scritto che gli azionisti non possono essere considerati truffati. Non abbiamo mai detto questo, abbiamo detto semplicemente che sono in una posizione giuridica diversa. L'obbligazionista è un creditore della banca tecnicamente, va bene? Quindi è una posizione diversa. Questo non esclude, come ha detto Sara Monaci, che possano provare a rivalersi personalmente quando, per esempio, si stabilisca che hanno acquistato queste azioni, gli è stato quasi imposto di acquistare queste azioni in cambio di un mutuo, tanto per fare un esempio, insomma, come ipotesi classica. La questione dei rimborsi, come si diceva, oggi è stato pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, ovviamente deve essere approvato dalle due camere. Una volta approvato dalle due camere ci saranno 4 mesi di tempo per chi deve chiedere i rimborsi. Chi ha acquistato i titoli entro il 12 giugno 2014 e un reddito al di sotto dei 35.000 euro annui può richiedere indennizzi automatici pari all'80% di quanto investito. Chi non presenta questi requisiti e ha comprato le obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 può accedere all'arbitrato, dove è possibile ottenere risarcimenti fino al 100% dimostrando il raggiro. Su questo il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Per quanto riguarda il rimborso degli obbligazionisti, ricordo che ci sono due opzioni: il rimborso automatico e l'arbitrato. Chi ritenga di avere tutte le ragioni, come può darsi che sia in molti casi, non lo so, di pretendere e di dimostrare di poter pretendere il completo rimborso in caso di mis-selling, quindi in caso di essere, virgolette, raggirati da chi ha venduto queste obbligazioni, può ricorrere all'arbitrato, che non esclude affatto il rimborso del 100%. Chi invece ritiene di utilizzare questa altra possibilità, e cioè il rimborso automatico fino all'80%, deve rinunciare all'arbitrato. Così dunque Padoan, e veniamo all'assemblea degli azionisti di Veneto Banca per l'elezione del nuovo consiglio d'amministrazione. In campo ci sono due liste contrapposte, la prima capeggiata dall'attuale presidente Pierluigi Bolla, la seconda dal giurista Stefano Ambrosini. Dunque con Marco Ferrando del Sole 24 Ore parliamo proprio di Veneto Banca, un'assemblea che qualcuno sperava che arrivasse dopo l'aumento di capitale, invece arriva prima, no? Sì, diciamo che ci sono molte affinità con la popolare di Vicenza, che è un'altra storia che si è conclusa con un mezzo fiasco pochi giorni fa, visto che l'aumento di capitale di fatto è stato sottoscritto in minima parte, quindi è saltato, compresa la quotazione. Anche Veneto Banca, che si è trasformata in società per azioni a dicembre, avrebbe dovuto nei programmi originari fare l'aumento di capitale, che in questo caso è leggermente inferiore a 1 miliardo, e poi cambiare, rinnovare il consiglio di amministrazione. Se non che per tutta una serie di questioni più formali che sostanziali, Consob e Borsa hanno chiesto di cambiare l'agenda, quindi domani si rinnova il consiglio e poi si procederà all'aumento. E che è un po' un paradosso, Marco, no? Perché in realtà potrebbe cambiare dopo un aumento di capitale, l'azionariato cambia, e quindi questo azionariato esprimerà un consiglio che si troverà presumibilmente un altro proprietario. Esatto. Nell'altra soluzione ci sarebbe stato un altro paradosso, perché la banca si sarebbe presentata alla borsa senza che l'assemblea avrebbe in quel caso approvato il bilancio, quindi di fatto era un paradosso cancellato, ma uno in più domani con questa elezione, come dicevi. Se non che l'elemento, se vogliamo, di incertezza e anche di interesse di questa assemblea è che per la prima volta si esprimerà il capitale e non le teste, quindi di fatto un'assemblea, una banca che non è mai stata abituata a calcolare il capitale, e quindi di fatto tra le due liste, una del CDA uscente, un'altra presentata da due associazioni di soci, la battaglia è serrata, nel senso che mancano dei precedenti che consentono di dire chi è in vantaggio e chi segue. È un rinnovamento estremamente importante, proprio perché appena concluso appena insediato il nuovo consiglio, si partirà con l'aumento. Un aumento fondamentale per ritornare al di sopra dei requisiti minimi di capitale e di liquidità imposti dalla BCE. BCE che, con una lettera che ieri è stata annunciata dalla banca, ha comunicato che sorveglierà molto da vicino sia le elezioni di domani che il consiglio che ne verrà fuori, perché qui il problema di Veneto, così come nel caso di Popolare Vicenza, sono i legami col passato. Di fatto l'aumento di capitale, il rinnovo, tutto quanto, e tutta una serie di misure volte a superare i danni, a porre rimedio ai danni delle gestioni passate. Pertanto l'accusa che entrambe le liste si rimpallano è quella di essere in qualche modo colluse con il passato. La lista 1 dice: voi della lista 2 siete di fatto tutti imprenditori finanziati la gestione di Consoli, storico amministratore delegato di Veneto Banca. La lista 2 risponde: e no, voi lista 1 che state governando la banca ormai da più di un anno non avete ancora promosso l'azione di responsabilità, motivo per cui collusi siete voi. Insomma, una battaglia interessante. Allora, traffico, poi brevemente Marco sullo scenario più generale che riguarda l'ingresso di Atlante a supporto di questo aumento di capitale. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, dunque, Veneto Banca, abbiamo detto aumento di capitale che dovrà arrivare e nel quale presumibilmente dovrà intervenire questo fondo Atlante. Il problema è quanto dovrà intervenire questo fondo Atlante, dovrà intervenire come per Popolare Vicenza e quindi accollarsi tutto? Marco, che idea ti sei fatto? Posto che si accettano scommesse, perché veramente la situazione da un lato sul mercato è veramente molto volatile e anche difficile da comprendere giorno per giorno, dall'altro la percezione che il mercato abbia di queste singole banche si scoprirà veramente soltanto ad aumento in corso. Quello che si può dire è che da un lato la banca chiederà di meno al mercato, quindi Vicenza chiedeva 1,5 miliardi e ne aveva raccolto poco più di 100 milioni, Veneto Banca solo 1 miliardo, solo si fa per dire, ma è già un punto di partenza. Seconda questione, il garante, prima che intervenisse Atlante, di Popolare Vicenza era uno solo, cioè Unicredit. Nel caso di Veneto Banca c'è un consorzio di garanzia nutrito, Banca IMI, quindi Intesa capofila, e una serie di altre banche estere, e questa è una buona notizia che dovrebbe favorire il buon esito del collocamento. Diciamo che le sensazioni sono un po' più positive rispetto a Popolare Vicenza. Sicuramente l'esito di domani dell'assemblea, e quindi la governance che verrà fuori della banca, sarà un elemento fondamentale. Certo è che meno Atlante ci metterà, meglio è per tutti. Certo, perché così, come dire, gli restano risorse per altri aumenti di capitale e poi per i non performing loans, le sofferenze, insomma, i crediti inesigibili. Esatto, Atlante ha 4,2 miliardi in cassa, 1,5 miliardi è uscito subito per Vicenza, sempre che non riesca a collocarne qualche pezzetto strada facendo, molto difficile visto che la banca non è quotata, e dovesse uscire un altro miliardo, anche 700-800 milioni per Veneto Banca, di fatto la dotazione sarebbe più che dimezzata nel giro di un mese. Non sarebbe sicuramente un buon inizio per tutto il resto, come accennavi. Ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire come vanno le cose per quanto riguarda Veneto Banca, e ora le borse. Allora, la giornata di oggi ce la caviamo da soli, senza i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore. La giornata di oggi, allora, innanzitutto la chiusura vi do, perché ha tentato per tutto il giorno Piazza Affari di chiudere in positivo, non ce l'ha fatta. Meno 0,17% per il FTSE MIB e meno 0,11% per il FTSE All-Share, in un quadro europeo che complessivamente è negativo, molto peggiore rispetto a quello di Milano. Parigi che cede l'1,09%, Francoforte 1%, Londra l'1,19%, l'America giù dello 0,63% sullo Standard & Poor's 500 e di 0,5% sul Dow Jones. È una situazione, se vogliamo speculare, a quella di ieri, nella quale Piazza Affari era andata molto molto male e le altre borse erano andate male anche loro, ma non così tanto. Bancaria due facce nella giornata di oggi. Il Banco Popolare chiude con un rialzo del 4,05%, Mediolanum un più 3,74%, Ubibanca un più 1,74%, dall'altra parte Intesa San Paolo giù del 2,25%, Monte dei Paschi dell'1,38%, Popolare Emilia Romagna dell'1,11%. Del resto le popolari, a parte Emilia Romagna, vanno un po' meglio, perché ieri erano andate particolarmente male. Tra i titoli in positivo troviamo oggi Poste Italiane, guadagna un 2,28%. Oggi c'è stata un'audizione dell'amministratore delegato di Poste, Francesco Caio, alla Commissione Trasporti alla Camera. Dice: il titolo è oggi leggermente sotto il livello della quotazione, ma nonostante il mercato difficile battiamo l'indice di mercato del 17%, a 6,72 euro per essere precisi Poste in questo momento, e dice anche: custodiamo 476 miliardi di risparmi degli italiani. Abbiamo ancora positiva Finmeccanica, che guadagna l'1,19% in vista del prossimo consiglio d'amministrazione. In questo consiglio d'amministrazione probabilmente la società dovrebbe rivedere le stime sul 2016. Positiva anche oggi Ferrari, che guadagna l'1,31%. e Fiat Chrysler, che adesso andiamo a recuperare, perde qualcosa, meno 0,8%. Da dire che nell'arco della giornata era andata abbastanza bene, era stata positiva. E qua conta evidentemente l'ufficializzazione dell'accordo con Google, se ricorderete ne abbiamo parlato nella puntata di lunedì. Altri titoli: Uxnet a Porte giù dell'1,35%, Mediaset dell'1%, Eni dello 0,89%, Mediobanca dello 0,82%, Tenaris di mezzo punto percentuale giù anche Exor, oltre che Fiat Chrysler dello 0,40%, Unicredit dello 0,13%, Snam appena sotto la parità, così come Generali. Tra i titoli positivi ci mancavano Saipem più 1,64%, Unipol più 1,39%, Luxottica più 1,19%, Telecom Italia più 1,14%, Ferragamo più 1,05%. E c'è da segnalare anche nella giornata di oggi il rialzo di Tecnogym al secondo giorno di quotazione, un più 6%. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre dopo GR24, parleremo della giornata di caos che ha vissuto Milano con i tassisti in protesta e poi torneremo a parlare di Europa tra poco. Sono Marta Cagnola e vi aspetto con il Sabato del Villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io e provo a rovinarti l'ultima ora del Sabato del Villaggio con Radio Tube. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. I nostri contatti: il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Mentre vi parliamo, è in corso la diretta internet del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Vi segnalo che proprio un istante fa, rispondendo ad una persona, gli faceva una domanda su Twitter, gli chiedeva che ne pensa della proposta di abolizione del bollo aumentando ragionevolmente le accise, e dice: non è una cattiva idea. Conoscendo il paese, il rischio di aumento delle accise senza abolizione del bollo è dietro l'angolo, però insomma. Allora, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, diamo un quadro generale di borsa. Come si diceva, chiusura in calo, meno 0,17% il FTSE MIB, meno 0,11% il FTSE All Share. Peggio le altre borse europee: Parigi giù di un punto percentuale, così come Francoforte, Londra dell'1,19%, l'America giù dello 0,6%. E adesso torniamo ad occuparci di Europa, così come quello delle banche è il grande tema di queste settimane, di questi mesi. Uno stato di salute del vecchio continente e dell'Unione Europea che coinvolge tanti elementi, ovviamente quello economico, ma anche ed evidentemente quello dei rifugiati, quello sul quale si sta sfaldando un pezzo d'Europa. Si parla della revisione del regolamento di Dublino e si ipotizza una sanzione per chi non accoglierà i rifugiati, che potrebbe ammontare fino a 250.000 euro per ognuno, questo stando ad alcune anticipazioni diffuse in queste ore. Sono circolate anche voci di una tassa da 50 euro per gli stranieri che entrano in Europa per turismo o lavoro. Queste sono indiscrezioni che stanno circolando. per sostenere il Migration Compact. E come sempre su questi temi ci accompagna Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore da Bruxelles. Adriana, buonasera. Buonasera. Allora, io vorrei chiederti innanzitutto questo. Viste le reazioni che registriamo anche da qua, dal nostro piccolo osservatorio, ma anche sulla stampa un po' più di destra, per così dire, non c'è il rischio che questa ipotesi della sanzione da 250.000 euro per ogni persona non accolta in realtà poi alla fine sia un boomerang? Intendo questo dal punto di vista politico per la Commissione Europea e per l'Unione Europea. Cioè, si dice, insomma, stiamo facendo delle cose per cercare di arginare il populismo, poi in realtà forse lo si alimenta. Beh, secondo me questa cifra è un ballon d'essai. Tutti sanno che naturalmente nel negoziato con gli stati membri e tra gli stati membri molto difficilmente resterà una cosa di questo genere. Del resto oggi i quattro paesi dell'est, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno già detto che neanche se ne parla. Quindi secondo me resterà un qualche cosa, ma io direi che la riforma di Dublino, così come è stata presentata, appunto, è un, come dire, il via libera alla discussione, il via libera al negoziato, ma io trovo che non è anche questo fatto della soglia, no, in base alla quale ci sarà la solidarietà sulle quote, no? Tu, ogni paese sulla base del 50% del PIL, cioè della ricchezza nazionale, e il 50% della popolazione, avrà una quota di riferimento per l'accoglienza dei profughi. Naturalmente, perché questa soglia della redistribuzione automatica dei rifugiati scarsi, quella quota dovrà essere superata del 150%. Io non credo che questo dato resterà, anche perché in questa versione di Dublino resta l'idea, che è sempre stata contestata dall'Italia, che si faccia accoglienza dal primo paese di sbarco. Quindi questo vuol dire che comunque tutti i rifugiati dovranno essere processati, per esempio in Italia o in Grecia o insomma dove sarà, e quindi con un onere enorme. Poi a me la sanzione di 250.000 a cranio di rifugiato sembra una cifra davvero, sì, proporzionale. È enorme, e no? Anche se, anche soprattutto adesso io non ricordo a memoria, se si calcolano gli aiuti che l'Unione Europea aveva dato ai paesi per rifugiato, mi pare che fossero 6.000 euro a rifugiato, se non, sì, mi ricordo male, ma devo andare a controllare. Sì. Quindi Assolutamente sproporzionata, perché no, basta che un paese giusto per chiarire agli ascoltatori, basta che un paese si rifiuti di accogliere 4.000 rifugiati, magari anche solo perché ne ha già accolti tanti, e si ritrova praticamente una manovra economica, cioè 1 miliardo di euro, insomma, quindi forse no, per questo è una cosa secondo me assolutamente insensata, proprio improponibile, per cui credo che una volta, anche perché non ci dimentichiamo che i paesi che sono contrari alle quote sono quelli più poveri, per cui dove li trovano i soldi? Certo, dove certo, li trovano? È no, certo. Secondo me è proprio un ballon d'essai. Senti, Adriana, forse è più preoccupante da questo punto di vista, perché come ci spiegavi tu, in sostanza, quello che sta uscendo in queste ore è di fatto l'avvio del dibattito. Possiamo definire, mettere tra gli elementi preoccupanti del negoziato. Possiamo mettere tra gli elementi critici con quanto ritardo sia arrivato questo negoziato su Dublino, che se ne parla da fin troppo tempo. E poi ti volevo sollecitare su la raccomandazione che ha presentato la Commissione Europea al Consiglio Europeo su quell'attuazione di un articolo del codice di Schengen che di fatto permetterebbe ad Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia di estendere i controlli temporanei alle frontiere interne fino ad un massimo di 6 mesi. Ecco, questo è un altro elemento di preoccupazione, il grande elemento di preoccupazione, ne parliamo da settimane, se non da mesi, il tema di Schengen, appunto, no? Sì, assolutamente. assolutamente, io trovo che una non solo ha approvato appunto l'estensione dei controlli, ma purtroppo era nell'aria, no? dopo le prese di posizione, chiusura della rotta balcanica, i comportamenti dell'Austria, eccetera, ma ha previsto che nel caso in cui affluissero, diciamo, in numero superiore alle previsioni, rifugiati quest'estate dalle coste italiane, insomma, verso nord, l'Austria potrebbe chiudere le frontiere anche con noi, perché ufficialmente si dice che sono quelli i paesi che prorogano i controlli per 6 mesi, ma nel caso in cui arrivassero flussi eccezionali appunto dall'Italia, dalla Grecia o da dove volete verso nord, i paesi coinvolti potranno chiudere le frontiere a quel punto per 8 mesi. quindi diciamo che se si mettono insieme questi fatti, la liberalizzazione dei visti ai turchi, perché anche questa è una notizia di oggi, e anche lì i turchi certo hanno fatto progressi eccezionali, ma ci sono, per esempio, il famoso passaporto biometrico non potrà essere pronto prima di ottobre, poi la riforma della legge sul terrorismo non si sa se arriverà oppure no. Quindi adesso si è di manica larga estrema con i turchi, perché naturalmente non si vuole che Erdogan mandi a mare l'accordo per i respingimenti appunto in Turchia dei rifugiati che stanno in Grecia, ma se si prende un po' tutto insieme si vede che viene privilegiata la preoccupazione dei paesi nordici, quindi appunto controlli alle frontiere restano, liberalizzazione dei visti alla Turchia, e invece le richieste del sud, primo dell'Italia, cioè quella di dire rivediamo Dublino così com'è, la geografia ci penalizza troppo, quindi non può continuare il principio del primo paese di accoglienza, quello resta, però si mette una multa irrealistica, 250.000 euro a cranio per i rifugiati qualora non fossero, diciamo, suddivisi i paesi, insomma, destinatari non li accogliessero secondo i principi delle quote. Quindi si fa una, secondo me, una sanzione spropositata per fare dimenticare che in realtà non si è cambiata la cosa più importante, che era quella di dire immaginiamo un sistema diverso da quello del paese di prima accoglienza, che viene inevitabilmente stressato, perché è la geografia che lo stressa, sono le sue coste che lo stressano, al di là dei controlli più o meno efficienti e tutte le cose che si sono sempre dette, che ci sono, perché ci sono delle colpe del governo italiano che in parte sono state risolte, in parte invece non ancora. Ma resta il punto focale, voglio dire, Dublino è stato concepito quando il fenomeno migratorio era un fenomeno marginale, oggi rischia di diventare un fenomeno di massa. E allora come fa il paese di primo sbarco a smistare tutto, cioè creare delle strutture dedicate, quindi è un po' secondo me squilibrata questa proposta, però vedremo poi. Il Consiglio in fase naturalmente la cambierà e il Parlamento pure avrà da dirci. Ti ringrazio intanto, grazie ad Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore da Bruxelles. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi parliamo di questa protesta dei tassisti contro una circolare del Ministero dell'Interno che riguarda Uber. Il tema è sempre quello, a tra poco. Focus Economia. Eccoci. Dunque, allora, Uber più o meno lo sapete che cos'è, se non lo sapete, è un progetto di trasporto privato a metà tra il taxi e il noleggio di auto con autista, si usa con un'app del cellulare, si effettua la richiesta e arriva uno che fa il noleggio col conducente sostanzialmente, insomma, non è un tassista. E ti porta dove chiedi e paghi con carta di credito. Uber Pop è l'evoluzione successiva e funziona di fatto con tutti i privati. Chiunque si può iscrivere, poi naturalmente può essere anche espulso se non guida bene, se non si comporta bene, eccetera, eccetera, e fare lo stesso servizio di trasporto che fa un taxi, però da privato cittadino. Beh, può farlo nel senso che lo l'infrastruttura tecnologica lo consente. Sul fatto che lo possa fare dal punto di vista legale, questo è tutto un altro conto. Ed è il tema esattamente questo, perché è arrivata una circolare del Ministero dell'Interno che invita la polizia a non fare sanzioni ai guidatori di Uber Pop. E oggi si è innescata su questo la protesta dei tassisti milanesi, che hanno di fatto messo in atto, almeno in parte, uno sciopero selvaggio. Pietro Gagliardi, delegato sindacale dell'Unione Artigiani di Milano, proprio per il settore taxi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, cosa è successo? Cosa dice questa circolare? Non ne usciremo mai da questa vicenda di Uber, Gagliardi? No, innanzitutto volevo sottolineare che Uber Pop in questo momento non è, è sospeso, perché tre sentenze del Tribunale di Milano hanno sospeso rendendolo illegale, per cui Uber Pop in questo momento non è operativo. Detto questo, ci chiediamo come possa una circolare della Polizia di Stato essere distribuita citando Uber Pop, che è sospeso regolarmente dal Tribunale. D'altro canto, questa circolare non è altro che una circolare che viene a fronte di un parere del Consiglio di Stato, che però, essendo un parere appunto, non può sovrapporsi alla legge in vigore in questo momento, che sono regolarmente in vigore. Per quanto riguarda il fermo, noi ci dissociamo, perché naturalmente non condividiamo alcun tipo di forma di protesta non autorizzata, anche se comprendiamo le ragioni dell'esasperazione dei colleghi, insomma. Sì. Però ripeto, quindi lei mi dice in sostanza, allora, il servizio Uber Pop non va, cioè non può andare, molto semplicemente. Esattamente. No? Quindi questa circolare di fatto non ha senso, e però si sono fermati tutti. Tanto, non ha talmente senso che oggi, intorno alle 14, la polizia locale di Milano ha emanato un'altra circolare dove dice che la legge è in vigore, che quindi gli articoli 85 e 86 del Codice dello Stato sono pienamente applicabili, e che questa circolare non ha alcun senso, non c'è nessun motivo per tenerla in considerazione, visto il fatto anche che viene scaturita attraverso un parere che resta sempre un parere comunque. È abbastanza grave si siano fermati oggi, però, i suoi colleghi. Certo, è abbastanza grave. Io ripeto, noi ci dissociamo ufficialmente, perché noi non approviamo nessun tipo di protesta che non sia condivisa e regolarmente autorizzata. Questo è chiaro, questo è un fatto assolutamente gravissimo. Senta, Gagliardi, però ne dovremo addivenire a una con questa vicenda di Uber, perché là il tema è sempre quello, no? L'idea che comunque c'è un'innovazione tecnologica che permette qualcosa di completamente nuovo e che inevitabilmente rompe delle barriere che sono anche delle barriere legali, e questo avviene naturalmente, pensi solo a quello che sta succedendo con Airbnb per quanto riguarda gli alberghi. Cioè, a un certo punto anche voi dovrete venire a patti con tutto questo, no? Ma certo, ma è per questo che noi abbiamo chiesto di istituire un tavolo e arrivare a costruire questa legge delica che metta in essere questa roba, ma fino a quel momento la legge esiste, è in vigore e ci dobbiamo attenere a quella che è la legge, altrimenti non siamo un paese democratico. Ma voi non sareste disponibili, aperti a un qualche tipo di modifica di questa legge? Cioè... Ma certo che siamo disponibili, è 2 anni che chiediamo al governo di sederci a un tavolo insieme e discutere di questa legge. Finalmente sembra che il mese scorso abbiano accettato questa nostra richiesta, prima o poi ci siederemo a questo tavolo e discuteremo, ma fino a quel momento, ripeto, la legge è in vigore e va rispettata quello che c'è. Sì, sento una cosa, ma che aperture siete disposti a fare ad Uber voi? Lo vedremo quando ci siederemo no, al tavolo. No, però avrete una posizione su questo, mi scusi? No, la nostra posizione è molto chiara, la legge dice che in questo momento che i noleggi fanno una cosa e i taxi ne fanno un'altra. Per cui, nel rispetto delle regole, paradossalmente, se i noleggi di Milano, che sono 247 circa, operassero a Milano con Uber, sarebbero tra parentesi nelle regole. Il problema è che a Milano ce ne sono 5.000 di ogni parte d'Italia e del resto del mondo, che vengono dalla Svizzera senza ogni tipo di autorizzazione, e noi è questo che stiamo contestando. Noi vogliamo che il rispetto delle regole, se poi nel rispetto delle regole l'applicazione ai noleggiatori consente di poter utilizzare, nel rispetto delle regole, Uber, perché no? Quindi lei dice solamente i residenti, per così dire, potrebbero lavorare? Solamente quelli che la legge dice che sono autorizzati a lavorare. Adesso, punto. Ho capito, però se si va a una trattativa per una modifica della legge, voi arriverete con una posizione in qualche modo, no? noi arriveremo con una posizione che condivideremo insieme con gli altri al tavolo del governo. Quindi, sarà il momento, quindi non ce l'avete ancora, di fatto non ce l'avete ancora una posizione, no, su Uber in sostanza. Prima dobbiamo sentire qual è la posizione del governo, a quel punto prenderemo atto della posizione del governo e vedremo quello che, dove riusciremo ad arrivare anche noi. Okay, noi siamo disposti alla trattativa, lo siamo sempre stati. Come dire, da quello che abbiamo visto oggi non sembra, però glielo dico molto, molto brutalmente, anche gli ascoltatori ci stanno scrivendo in questo momento, ci dicono no, ma i tassisti non sono disponibili ad una trattativa su questo in realtà. Ma guardi, se lei lo chiede, non so chi l'ha chiesto lei, ma se lei lo chiede ai nostri clienti vedrà che gli rispondono esattamente il contrario. Cioè, quindi siete disposti a trattare su Uber, questa, certo, è la sostanza. Da un po' che lo chiediamo, anche perché non è che possiamo ritrovarci ogni tre mesi punto a capo. Noi siamo disposti ad andare ad arrivare a una legge delega che ci inquadri per i prossimi 15-20 anni e che ci lasci vivere tranquilli come il resto del mondo. Va bene, vedremo nel momento nel quale il governo aprirà una trattativa se ci sarà effettivamente questa possibilità. Io lo spero sinceramente, perché, ripeto, a prescindere dal caso... Lo speriamo anche noi. A prescindere dal caso Uber, ripeto, è un tema di un'innovazione che inevitabilmente irrompe, che piaccia o non piaccia, evidentemente, positivo o negativo o meno... Certo, noi di innovazione però ne abbiamo da vendere, vorrei ricordare, quindi anche al di sopra di quella che può far finta di offrire Uber, quindi noi non siamo contro l'innovazione, noi siamo per le regole, perché altrimenti le regole le togliamo a tutti e allora altrimenti a quel punto non c'è più il problema. Per carità, è un tema più generale. Io la ringrazio, grazie a Pietro Gagliardi, che è il delegato della sindacale dell'Unione Artigiani di Milano per il settore taxi, come avete sentito sconfessa questa sorta di sciopero selvaggio di oggi. Ho scoperto qualcosa anche io, perché in realtà credevo che ci fosse una chiusura totale nei confronti di una trattativa su questi temi che riguardano appunto l'innovazione, queste nuove app che sono questa, Airbnb per quanto riguarda gli alberghi e non solo, e invece evidentemente non c'è. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno e Eleonora Aragone in redazione, un grazie a Pietro La Corte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni, noi invece ci risentiamo come sempre domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, la passione si sente.